Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Chi mangia poco vive di più. È la scienza a dirlo. Chi mi conosce bene mi chiama il digiunatore. Niente cibo per tutto il giorno. Digiuno fino a sera. Al massimo un caffè macchiato, qualche volta una spremuta fresca di agrumi e uno yogurt. Il digiuno per me è una scelta di vita da tanti anni, esattamente come il vegetarianesimo. Se devo essere sincero, decisioni che possono sembrare legate alla cura della salute, come quella di digiunare o evitare del tutto di mangiare carne, hanno pochissimo a che vedere con la mia personale prevenzione. La raccomando agli altri, ho cura di chi mi circonda e di tutti i pazienti che incontro, ma il mio comportamento alimentare nasce da esigenze diverse rispetto alla salvaguardia della mia salute. Così scrive il professor Umberto Veronesi, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, nel suo ultimo libro, che già dal titolo promette di far discutere. La dieta del digiuno, perdere peso e prevenire le malattie con la restrizione calorica. Mondadori Editore. E il professor Veronesi è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno, eccomi. Sono molto contenta che lei sia con noi oggi. Lei è Nicoletta, mi pare. Sì, sono io. Professore, lei come fa? Da stamattina un caffè macchiato? Basta? No, così? Nemmeno un caffè, se devo dire. Mi alzo e mi vengo a lavorare senza forse un bicchiere d'acqua, non di più. Professore, lei scrive che non lo fa per la salute ma digiuna. Verrebbe da chiedersi, ma chi glielo fa fare? Penso che questo sia anche il pensiero di molti ascoltatori, soprattutto di coloro che sono a dieta o dovrebbero iniziarla, ma non lo fanno proprio per la paura di soffrire la fame. Certo, soffrire la fame, questo è un termine corretto. La gente soffre se non mangia perché è un condizionamento. Ci siamo condizionati a mangiare e mangiare troppo. Quindi una restrizione ci fa soffrire. Ma la sofferenza è utile all'uomo. Noi siamo nati proprio perché la sofferenza ci permette di sfidare noi stessi. Se io faccio una cosa difficile, una competizione, se scalo una montagna, soffro ma conquisto. Conquisto a livello intellettuale, a livello di pensiero, è lo stesso il digiuno. Se io impongo di non mangiare quel giorno perché voglio liberare il mio corpo ed essere più libero nel pensiero, nelle idee, nella produzione di tante nuove innovazioni, io digiuno. Certo che preferirei mangiare, ma è bellissimo il digiuno. Se uno lo prova si accorge che si riesce a superare il momento della differenza e della sofferenza della fame. Professor Veronesi, mi aiuti a capire. Tante volte abbiamo sentito, parlando anche di diete per perdere peso, mi raccomando, non saltate i pasti, il nostro organismo ha memoria e quindi se si saltano i pasti in qualche modo si rischia. Lei invece ci dice digiunate. Ecco, tutti possono farlo, per quanto tempo? Che caratteristiche deve avere questa restrizione calorica? Io non sono un predicatore, constato solo che siamo sovralimentati in Occidente e sottoalimentati nei paesi in via di sviluppo e che quindi è un'ingiustizia che dovremmo correggere. E tra le tante forme, anche se vuole significative, anche se magari di scarso interesse concreto, è quello di digiunare, mangiare poco noi in Occidente, perché la sovralimentazione è un problema anche di salute, anche se, come ripeto, come lei stessa ha detto, le mie scelte non sono salutistiche ma sono morali. Digiunatore, professor Veronesi, e vegetariano. Su questa sua scelta, che ancora una volta è scelta di vita, lei è stato più volte intervistato. In questo libro mette nero su bianco le tre ragioni che l'hanno spinta proprio a evitare la carne. Sì, io evito la carne perché amo gli animali. È una cosa molto semplice. Molte persone dicono di amare gli animali, però li uccidono, li mangiano. Come dire, io amo i bambini, ma ogni tanto me ne mangio uno. Non è corretto, bisogna essere coerenti. Io amo gli animali, davvero. Sono cresciuto in una cascina insieme a loro, con i piccoli puledri, con i vitellini, con gli agnelli, con i cani, con tutti. Non me la sento, sono intelligenti gli animali, sono consapevoli, hanno sentimenti, e sentimenti quasi umani per certi aspetti. No, chi ha un cane lo sa, lo sì. vede che sia geloso, è possessivo, è fedele, e quindi sono sentimenti che vanno rispettati. Perché dobbiamo ucciderlo? Nessuno ucciderebbe il proprio cane, no? No. Per mangiarlo soprattutto, anche se la carne di cane sembra molto buona, ma i valori etici prevalgono sui valori del gusto, se no, anzi, la carne umana è la più buona, sembra, dicevano i cannibali. Però meglio però, evitare, dice lei, professore. Vuole avere dei valori certo. etici, ma io sono un pochino più estesi di chi invece non mangia il proprio cane. Professore, i vegetariani vivono meglio e di più? Sono più protetti in termini di salute? Sì, mangiare meno, mangiare poco certamente aiuta a prolungare la vita. Mangiare bene, naturalmente, nutrirsi, essere attento a quello che si sceglie. In genere nel mondo vegetale c'è quasi tutto, tutte le molecole protettive, tutte le vitamine si trovano nei vegetali, quindi il mondo vegetale è un mondo che è nato per trovare un accordo con gli esseri umani, perché mangiando i vegetali l'uomo sopravvive bene o vive bene. Professore, agli adulti quindi il consiglio è mangiate poco e mangiate, scegliete bene. Per i bambini quali consigli? Uguale, non c'è differenza. I bambini possono trovare tutte le proteine che vogliono per crescere già nel latte materno, oggi la caseina che si scompone poi in decine di aminoacidi e che dà tutti gli organi. Il bambino può vivere fino a 3 anni e crescere bene e sano solo con un alimento, una proteina, che è la caseina. Ma se pensi che nei legumi, nelle noci, in una quantità di materiale vegetale ci sono tutte le proteine possibili, non c'è ragione di mangiare la carne. Se pensi che, questo esempio solo, l'animale più potente forse che conosciamo è il toro. Il toro è gigantesco, delle masse muscolari molto forti, però è vegetariano, non mangia carne. Da dove viene allora tutto questo quantità di muscoli e di materiale proteico? Professor Veronesi, al 349-238-6666 arrivano molti messaggi, 800-24-0024 se volete naturalmente intervenire. Voglio leggere il messaggio di Giulio che ci scrive da Roma e dice, ci scrive: meno male gli adolescenti sono a scuola, digiunare è bellissimo, detto da Veronesi, è come un gentile invito alla futura anoressia. Che cosa risponde a questo commento, professore? No, l'anoressia non ha niente a che vedere col digiuno. Il digiuno esiste proprio da sempre, anche nei paesi più poveri, in tutte le religioni. Gli arabi digiunano un mese nel Ramadan, da piccolino noi si digiunava il venerdì, si digiunava sempre, ma nessuno ha mai avuto nessuna tentazione all'anoressia. L'anoressia è proprio tipica dei paesi che mangiano molto, i paesi con benessere, perché è una forma psicologica di ricatto. Io non mangio e quindi ti danneggio. Vado a leggere un messaggio che ci arriva da Eugenio, da Bergamo. Io digiuno da 7 a 10 giorni all'anno in primavera, da 10 anni circa. In quei giorni bevo solo acqua e continuo a lavorare senza problemi. È fantastico. Ed Eugenio ci scrive: è come rifare il motore a una macchina, e ce lo consiglia vivamente. Si è più lucidi digiunando, o meglio, con una restrizione calorica, professor Veronesi? Piacere che sia almeno un altro digiunatore in Italia, se no mi sento molto solo. Sì, no, quello che ha scritto è verissimo. Professore, ma digiuna vegetariano, ma avrà qualche preferenza? Se io volessi invitarla a cena, che cosa le preparo, professore? È un problema, sì. Però a me piacciono in Italia, non si possono mangiare le paste, gli spaghetti col pomodoro, le penne con un condimento adatto, i paccheri con delle verdure, sono buonissimi. Poi io devo dire, non sono un vegano, quindi immagino che le uova, perché le uova sono naturali, la gallina le fa naturalmente, quindi, non possiamo impedirglielo di fare le uova. Quindi professore, io con dei paccheri alle verdure e una frittata di zucchine, benissimo, io me la cavo e la invito a cena. Possiamo farlo. Va bene, allora è fatta. Grazie al professor Veronesi. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, mangiare, digiunare, puoi dormire, puoi soffrire, puoi ridere, sognare. E qui in studio con me la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico, curatrice insieme alla dottoressa Lucilla Titta del libro del professor Veronesi, La dieta del digiuno, perdere peso e prevenire le malattie con la restrizione calorica. Ma è giovedì? Non poteva mancare il nostro, posso dire nostro, dottor Filippo Ongaro? Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, certo, a me fa piacere essere vostro qui. Sono un po' possessiva, come il mio cane. Io ho un cane molto possessivo che si vede che mi rispecchia. Dottoressa Luini, più che una dieta, il professore l'ha sottolineato, una filosofia di vita. Sì, sì, le sue scelte alimentari non sono dei paradigmi, quindi questa non è una dieta, il libro non vuole essere una dieta. Hanno chiesto a Veronesi di spiegare quale fosse la sua filosofia di vita e il suo approccio anche all'alimentazione. Quindi ha spiegato tra le varie cose la sua scelta vegetariana e anche la sua scelta di digiuno. Le sue motivazioni, come già ha detto lui molto meglio di me, sono motivazioni etiche, morali. Certo, esiste anche un risvolto fisico, esiste anche un risvolto in termini di salute, quindi nel libro spieghiamo anche quali siano i cibi eventualmente da scegliere per un'alimentazione sana. Mangiare meno, mangiare meglio per guadagnare salute, dottor Ongaro? Beh, direi che, a parte il fatto che il professor Veronesi, diciamo, è anche un testimonial lui, no? Personale, e questo è molto importante, credo, anche come esempio da dare, ma voglio dire, non c'è ombra di dubbio che uno dei problemi principali della salute del mondo occidentale è l'eccessiva alimentazione, su questo credo che nessuno discuta, e la restrizione calorica è indubbiamente uno dei temi più interessanti adesso nell'ambito della biogerontologia, proprio perché cerca di spiegare perché ridurre le calorie ti fa vivere più a lungo e perché mangiare troppo probabilmente ti fa vivere meno. Quindi mangiamo di più, e non ce ne mangiamo molto, ma quasi, dottor Ongaro, non ce ne rendiamo conto. In realtà la bilancia ci dà qualche indicazione, ma a volte non basta quello. Ma assolutamente, anche perché Nicoletta, credo che sia molto vero quello che è stato detto prima dal professore, cioè noi abbiamo un condizionamento psicologico, le esigenze metaboliche dell'organismo umano sono molto scarse, noi veniamo da una storia evolutiva in cui non c'era nulla. E quindi tendiamo ad ingolfare il motore e poi appunto la bilancia ci indica i chili di troppo, la circonferenza addominale si allarga e piano piano negli anni poi subentrano i problemi di salute, insomma. Quindi, parafrasando lo spot tormentone di una nota compagnia telefonica di qualche anno fa, la domanda di oggi è: mangi? Ma quanto mangi? Raccontatecelo all'800240024, scriveteci, seguiteci su Twitter o su Facebook. Dottor Ongaro, se noi siamo sinceri, lei che cosa ci dà in cambio? Se le raccontiamo la nostra giornata alimentare? No, credo che io lo devo dare anche in cambio. Raccontare la propria giornata alimentare o anche prendere nota di tanto in tanto fa capire alle persone effettivamente quanto tendiamo a mangiare e soprattutto quante volte ci capita di mangiare non perché abbiamo fame ma perché siamo nervosi, siamo sovrappensiero, il cibo diventa un elemento di scarico psicologico fenomenale, siamo circondati da cibo ovunque, quindi è il sistema più facile per rilassarsi, quindi prendere nota di ciò che si mangia e avere una sorta di diario è una cosa molto utile per capire il proprio rapporto col cibo. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, dottoressa Luini, quindi cerchiamo di mangiare un po' meno ma di mangiare, sì, meglio, e di utilizzare dei cibi amici. Nel libro tra l'altro li mettete nero su bianco, sì, e non vi limitate a dare delle indicazioni generiche, no, verdura, frutta, sappiamo tutti, no, che infatti fanno bene, ma li chiamate fate nome per nome, un elenco, una sorta di elenco ragionato. Sì, io ho scelto adesso in particolare due alimenti, la soia e i piselli, per due motivi. Il primo è che sono alimenti vegetali e buoni, il secondo motivo però è che sono alimenti con qualche spazio di dubbio da parte della gente. Capita molto spesso, per esempio, che ci chiedano se la soia possa essere mangiata dalle persone che hanno avuto un tumore al seno. Questa è una domanda frequentissima. Ebbene, la soia non solo è benefica nell'alimentazione anche, ma non solo, per chi ha avuto un tumore al seno. Sembra che riesca a prevenire, attraverso i fitoestrogeni presenti nella quantità giusta, tumori sensibili agli ormoni come quello al seno. Quindi questo è un dato molto interessante e importante. E i piselli? E i piselli, ci sono un sacco di diete. Farò uova e piselli, ecco, ho capito, il per conquistare Veronesi, il professor Veronesi, me, sì, sì, felicissimo, cavo, no? Assolutamente. I piselli, quante diete sconsigliano i piselli? Quante diete dicono fanno ingrassare? Questa è una bugia clamorosa, anche perché i piselli non solo sono benefici per la salute perché contengono più o meno i fitoestrogeni della soia, ma anche contengono molta acqua, perché ritengono molta acqua e quindi danno una buona idratazione all'organismo. Ho scelto questi due alimenti in particolare perché esistono dubbi che vanno assolutamente tolti. E quindi due alimenti che rientrano in questa spesa salutare, buoni, sì, ecco, di cui parlate naturalmente nel libro, ed ci offre questo un secondo stimolo per i nostri ascoltatori. Provate a fare anche voi una lista della spesa salutare. Che cosa ci mettereste dentro e perché? Naturalmente dettagliate, non mi basta sapere la verdura, chiamatela per nome o la frutta, perché con il dottor Ongaro e la dottoressa Luini cercheremo di capire, individuare i cibi che ci fanno bene. Noi premettiamo sempre che la formula vincente è quella di un'alimentazione varia ed equilibrata, ma ci sono anche dei superalimenti, se vogliamo chiamarli così, degli alimenti che ci fanno particolarmente bene, vuoi perché hanno un ruolo protettivo, preventivo nei confronti di alcune malattie. Allora cerchiamo di conoscerli, vediamo se compaiono con la frequenza corretta sulle nostre tavole. 800 24 00 24, dottor Ongaro, nell'attesa delle chiamate dei nostri amici. Torniamo al digiuno, a questa forte restrizione calorica suggerita dal professor Veronesi. Può essere usata come una risposta quindi ad un'alimentazione super ricca di calorie, zuccheri e grassi? Possiamo inserirla nella nostra settimana, una giornata in leggerezza, diciamo così, per un po' bilanciare questa alimentazione troppo ricca? Sì, non credo che diciamo il messaggio forte sia mangia tanto e male durante la settimana e poi fai un giorno è di digiuno che la risolve volevo. Il problema, perché di fatto chi approccia questo tipo di alimentazione, chiamiamola di restrizione calorica, in realtà sono persone molto consapevoli, sono persone che mangiano molto bene sempre, quindi la restrizione calorica è complessiva e non è soltanto un compenso a dei giorni di invece mangiate eccessive. Certo è che, ripeto, nella media noi siamo un sistema alquanto ingolfato da un eccesso di calorie, di sale, di zuccheri, di grassi, e quindi è presumibile, anche abbastanza logico, che riducendo questo tipo di apporto riportiamo il sistema a lavorare nella sua massima efficienza, insomma, quindi credo che qualcosa di vero, anche perché i risultati, insomma, dalle ricerche ormai cominciano ad essere abbastanza eclatanti su questo, insomma. Allora, Fabio ci chiama da Lodi. 800 24 00 24, e iniziano tantissime domande. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Cosa mi racconta lei? Mi complimento per le sue trasmissioni. Ma grazie. Allora, Fabio, la mia esperienza di vita, sostanzialmente io ho 48 anni e sono stato fino a poco tempo fa diciamo a tavola un godereccio. Mi è sempre piaciuto mangiare di tutto, troppo, bere il giusto, comunque a assaporare un po' di tutto. Ho avuto un conflitto interno e per più di un anno ho cercato di trovare, come dire, la chiave di volta per ridurre la quantità e di migliorare la qualità, diciamo, degli alimenti di fatto fortunatamente ci sono riuscito, diciamo così, seguo una dieta non dettata da, diciamo, da un medico, piuttosto sì. che da buon senso, seguendo un po' tutte le direttive che davano poc'anzi i vostri esperti. Mm. Devo dire che oltre al grosso, diciamo, risultato e vantaggio fisico, sì. e anche sottolineerei l'aspetto psichico che mi giova, cioè la sì. mente si rendo sente conto meglio. Che, sicuramente sono più lucido. Memoria, insomma, sì. Fabio, questo nuovo stile alimentare che può rimanere godereccio, vero dottor Ungaro? Noi possiamo privilegiare la qualità, mangiare bene non significa mangiare smorto, no? Sciapo. Beh, ci abbiamo sempre provato perlomeno, no? Con indicazioni bravo. Anche dei nostri cuochi, ma, eccetera. Ma vedi, vedi perché dico nostro, dottor Ungaro? Perché quindi Fabio ci racconta anche un aspetto molto interessante nel cambiamento dello stile alimentare. Insomma, la mente funziona meglio, ci si sente meglio. Se avete provato a cambiare il vostro stile alimentare, raccontateci come l'avete cambiato e quali effetti avete ricevuto. Essere e benessere. E vado su, su, su. Uno zerbino che ti dice quanto pesi. Il tuo peso è... Scendi, scendi! E poi ancora su. E tu che dieta fai? Nessuna dieta, perché a casa mia si mangiano normale. Cioè? Pasta e fagioli, brodo di polipo, polli petti con olive e chiapparielli, zuppa di carne cotta, la fuva e micellelle olio, carne di porco, soffitto, piselli, uova. Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 kg, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier. E siamo tornati insieme, abbiamo aperto con un libro del professor Veronesi che farà discutere la dieta del digiuno, perdere peso e prevenire le malattie con la restrizione calorica. Il professor Veronesi dice: mi dicono di me che sono il digiunatore e sono vegetariano, e stiamo parlando proprio di questo. Sicuramente mangiamo troppo. Sentiamo tante volte, l'abbiamo ripetuto anche a Mangia con me, i medici lo confermano, che saltare i pasti non è salutare. Il professor Veronesi dice: io personalmente prendo un caffè alla mattina e tiro avanti. La dottoressa Luini, che lavora con lui, tira avanti e poi mangio qualche cosa, ma adesso che sappiamo che possiamo fargli la pasta, i paccheri sì. con le verdure e la frittata. Sì. Allora, dottor Ungaro, divagando, allora, questo digiuno, questa proposta del professor Veronesi, che più che un digiuno è una restrizione calorica, come si inserisce rispetto alle altre indicazioni largamente condivise, provate scientificamente, ripetute anche da noi a Mangia con me, non saltare i pasti? Chi può fare il digiuno, la restrizione calorica un pochino più estrema, e chi invece non deve saltare neanche un pasto? Seconda domanda: il digiuno può sicuramente accendere la mente, ci rende più svegli, eccetera, ma si legge anche che possa avere degli effetti collaterali, produrre delle reazioni nel nostro organismo, ad esempio l'aumento di trigliceridi e colesterolo. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza? Ma allora, intanto credo che appunto sia molto importante inquadrare dove avviene la restrizione calorica, cioè in che contesto alimentare. La stessa cosa possiamo dire per il saltare il pasto o per il giorno di digiuno, cioè se viene nel contesto di un'alimentazione sbilanciata e non corretta, non è la soluzione, bisogna correggere l'intero approccio. Anche perché c'è una progressione nell'organismo nell'adattarsi a questo tipo di stile di vita, no? Se io vengo da un'alimentazione ipercalorica, di colpo salto tutti i pasti, beh, è chiaro che lì ci può essere una destabilizzazione della glicemia, ci può essere una reazione quasi all'opposto, no? Di stanchezza. Questo tipo di alimentazione, come l'attività fisica, è una sorta di allenamento per l'organismo, quindi ci si deve arrivare per gradi. Ma volevo anche riagganciarmi un secondo a quello che ha detto il professor Veronesi sulla sofferenza, perché credo che sia un tema molto interessante. Lui ne parlava in un ambito più emotivo e psicologico, ma diciamo che la restrizione calorica ha questo effetto anche a livello della cellula, cioè quello che accade è che dà una sorta di micro stress alla cellula, micro stress al quale la cellula deve appunto abituarsi, che espande, potenzia, rafforza le proprietà protettive della cellula stessa. Dunque, non credo che si possa dare un giudizio netto se non capendo chi effettivamente pratica questo tipo di alimentazione e come ci si arriva. Ci si deve arrivare con un certo tipo di preparazione per gradi, insomma. No, professor Ongaro, ci sono persone però a cui è bene sconsigliare vivamente di arrivare, anche se progressivamente, a questa restrizione calorica. Molti ascoltatori mi scrivono: sono diabetico, oppure ho la tiroide con valori sballati. Cioè, ci sono delle persone che hanno magari delle malattie croniche a cui questo messaggio può in qualche modo confondere. Vogliamo fare chiarezza, perché ci piace confrontare, no, più idee, e soprattutto tirare per noi delle informazioni utili per la nostra salute e per il nostro benessere. Professor, dottor Ongaro. Ma io credo che è chiaro che chiunque abbia una problematica medica è bene che faccia qualsiasi cambiamento nutrizionale diretto da un medico di sua fiducia, cioè, ma questo vale per qualsiasi tipo di approccio, quindi chiunque abbia delle problematiche mediche e metaboliche è bene che faccia variazioni alimentari proposte da un medico. Ma detto questo, il concetto della restrizione calorica, cioè del mangiare meno e meglio, è una regola veramente generale, cioè non è un qualcosa di estremista, no? Che dici devo prenderlo con molta attenzione, perché veniamo da una base di un'alimentazione che indubbiamente è ipercalorica ed eccessiva. Quindi intendere la restrizione calorica come il passaggio ad un'alimentazione che è ipocalorica e ipernutriente, quindi che ti dà i nutrienti necessari, non che ti toglie, che ti dà i nutrienti necessari, che spesso peraltro sono assenti nei cibi ipercalorici, attenzione, dove ci sono tante calorie ma spesso pochi nutrienti, no? Quindi se noi facciamo un passaggio ad un'alimentazione molto più ricca, per dire, di verdure, beh, lì abbiamo una sorta di somiglianza al digiuno, perché abbiamo una tipologia di alimento che è per definizione ipocalorico, ma è ipernutriente. Quindi ci sono questi cibi che quasi assomigliano al digiuno, dottor Ongaro? Beh, certo, infatti la restrizione calorica come approccio, in America questo insomma è abbastanza noto ormai da anni, questo tipo di approccio, consiste proprio in questo, no? Non è un digiuno, ma è un restringere le calorie quotidiane a lungo, e proprio per poter fare questo bisogna però garantirsi che pur nella restrizione calorica ci siano i nutrienti che sono necessari all'organismo per vivere e funzionare al meglio, insomma. Dottoressa Luini, abbiamo provato a fare la lista della spesa, che nel libro è ben dettagliata. Lei ha ricordato la soia e i piselli. Mi chiedono: piselli surgelati in scatola va bene? Vanno bene? Vanno bene, vanno benissimo, lo spieghiamo anche nel libro. Vanno benissimo, anche surgelati vanno benissimo. Aggiungiamo un altro ingrediente alla nostra spesa della salute? Aglio e cipolla. L'aglio è eccellente, nonostante gli effetti sociali quando se ne mangia tanto, perché è un antibatterico potente, questo si sa da decenni, ma anche pare possa prevenire il tumore dello stomaco, e dati recenti indicano che dà anche una prevenzione prostatica, quindi per la prostata l'aglio è preventivo. Oppure le verdure a foglia verde, o ancora le arance rosse. Le arance rosse, su cui l'OIE ha fatto uno studio, un interessantissimo studio, perché pare che, al di là del discorso vitamina C, eccetera, contengano elementi che abbassano i livelli di trigliceridi e colesterolo e facciano anche dimagrire, cosa che a me interessa tantissimo. Angelo, buongiorno da Milano. Prima di andare a sentire le strade, benvenuto. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, io avevo il problema che ingrassavo sempre, ero sempre molto sovrappeso, 20-30 kg in più. Sì. Ho trovato un dietologo che praticamente, ho provato tantissime diete, ma tutte mi stressavano, perché o mi mancava un alimento, o mi mancava questo, dovevo mangiare poco. Con questo dietologo qua praticamente non mi è precluso alcun alimento, no? Mi viene, devo solo neanche dosarlo, devo assemblarlo giornalmente. Ho tante scelte, tanti tipi di carne, tanti tipi di verdura, così, e praticamente io mangio tutto e sono dimagrito, sono riuscito a dimagrire mangiando tutto, E con grande soddisfazione. Ah certo, perché guardi... Vede, quando uno dice, sono godereccio, devo poi convertirmi, la dottoressa Luini vuole intervenire? Sì, mi piace molto questo intervento, perché in realtà noi dobbiamo sempre pensare a chi ha difficoltà a fare una restrizione calorica. Essere e benessere. Il primo sei tu, Carlo? Sì, chef. Hai portato un piatto? Sì, chef. Il piatto è questo? Branzino in guazzetto con guarnizione di olive taggiasche. Tu faresti mangiare questo piatto a tua madre? Eh? Posso assaggiarlo? Sì, chef. I can test it. Vuoi che muoro? Dottoressa Luini! parliamo di dieta, di che cosa mangiare bene e mangiare sì. per stare meglio, sì. Ma lei sottolineava, e il dottor Ongaro è in linea con noi, bisogna anche pensare alle persone che devono sì. dimagrire e hanno fame, sì, sì. Che sono la maggioranza. Sì, assolutamente. L'enfasi secondo me va data all'aiuto a chi mangia tanto, forse perché mi identifico con questo genere di persona. In realtà noi dobbiamo anche pensare a chi ascolta tutte queste cose, legge i libri, compreso questo che ho scritto col professor Veronesi, e che però non è capace di arrivare a determinati risultati. Quindi credo che l'informazione sui cibi salutari, abbiamo sentito anche l'intervento di questo ascoltatore, sia preziosa, perché dobbiamo capire cosa mangiare. Abbiamo capito che dobbiamo mangiare meno, abbiamo capito che la restrizione calorica aiuta le nostre cellule, e lo confermo perché aiuta molto anche nella prevenzione dei tumori. La longevità, lo sappiamo, è legata alla restrizione calorica, ma allora dobbiamo capire anche che cosa suggerire a chi mangia tanto e non riesce a mangiare meno. Un suggerimento, dottor Ongaro? È una domandina adesso facile. Facciamo notte, no? Cioè, adesso ci mettiamo questa soluzione, qua. Sai. No, il discorso è concordo pienamente. Lei doveva dire, dottor Ongaro, andate su Mangia con me sulla pagina, sì. Adesso lo dico no, io. Lo sanno, però Nicoletta, il problema è che qui questo è assolutamente vero, anzi credo che oggi l'informazione su cosa fare sia assolutamente presente, quindi dobbiamo cominciare a chiederci come mai non si riesce così facilmente a fare un certo tipo di scelta, e credo che questo abbia molto a che fare con la parte psicoemotiva della gestione dell'alimentazione, che forse è, diciamo, stata, non voglio dire messa in secondo piano, ma insomma forse ce ne dobbiamo occupare tutti di più, perché in realtà il nocciolo del problema probabilmente sta lì, insomma. Avete mai provato a meditare con lo stomaco pieno e a svolgere qualsiasi lavoro o attività intellettuale? Quali idee fulminee, intriganti, appassionate, geniali possono mai arrivare dopo un'abbondante mangiata? Per me il digiuno è fonte di chiarezza mentale. Intasare di cibo il corpo fa perdere lucidità e capacità creative, rallenta i riflessi e la razionalità. Così scrive il professor Veronesi nel libro di cui stiamo parlando oggi, La dieta del digiuno, ma in linea con noi abbiamo il professor Giancarlo Comi, professore di neurologia all'Università Vita Salute del San Raffaele e direttore del Dipartimento Neurologico all'Istituto Scientifico sempre del San Raffaele di Milano. Professore, intanto buongiorno a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Lei ha mangiato stamattina? Sempre, non in quantità limitate, ma sempre. Ma si ragiona meglio a stomaco vuoto, questo lo sappiamo, almeno a stomaco non appesantito, no? Perché lo sappiamo tutti per esperienza personale, ma c'è una ragione dietro a questo, professore. Beh, allora, diciamo che anche qui è una questione di stare nella media. Al mattino è importante avere il carburante per il cervello, il carburante del cervello è il glucosio, quindi è importante avere una colazione che dia la possibilità al cervello di funzionare in modo adeguato, ma d'altra parte noi sappiamo oggi che la restrizione calorica è un aspetto importante per la prevenzione della demenza. Ci sono tutta una serie di dati che la circonferenza del nostro addome in età media predice il nostro rischio di andare incontro alla malattia di Alzheimer in età avanzata. Quindi questo fattore già di per sé la dice lunga sulla importanza della dieta, e d'altra parte il nostro cervello è immerso in ciò che noi mangiamo, questo assolutamente è poco ma sicuro. Quindi È chiaro che una dieta che mantenga un buon equilibrio, soprattutto eviti l'accumulo di eccesso di ossidazione, è importante per prevenire la morte neuronale e la degenerazione del tessuto nervoso. Professore, saremo qua tutti a guardarci la pancia. Adesso che abbiamo sentito da lei che c'è una relazione tra circonferenza addominale e demenza e Alzheimer, ci vuole dare qualche dettaglio in più? No, beh, sono stati perché fatti... tanto noi tiriamo in dentro la pancia e per il momento facciamo solo quello. No, sono stati fatti alcuni studi epidemiologici e si è visto che non solo la circonferenza dell'addome, quindi il cosiddetto grasso centrale, predice il rischio di demenza, ma anche studi post mortem cosiddetti, cioè studi patologici, hanno dimostrato che nel cervello delle persone che avevano una quantità eccessiva di grasso centrale vi erano maggiori morti delle cellule, vi era una maggiore degenerazione del tessuto, quindi tutto questo è un elemento che spinge fortemente nella direzione di un controllo del nostro peso, questo è un dato di fatto assoluto. Professore, lunedì si apre una settimana molto importante, che è la settimana mondiale del cervello, promossa proprio dalla Società di Neurologia. Iniziative, convegni, massimi esperti discutono intorno a questo organo affascinante e magnifico di cui sappiamo sempre più notizie. Beh, come lei sa, ci sono due mega programmi di ricerca, uno lanciato da Obama recentissimamente negli Stati Uniti e uno lanciato dalla Comunità Europea, che si prefiggono entrambi di svelare la maggior parte, perlomeno, dei segreti del nostro cervello, di come funziona, delle connessioni, della modalità con cui si scambiano le informazioni dentro la nostra testa. Dopo aver rivelato i segreti del nostro genoma, questo è il nuovo target, rivelare i segreti del nostro modo di pensare. Chissà che non sia di qualche utilità anche per la nostra vita quotidiana. Da questo punto di vista, la Società di Neurologia che io presiedo ha lanciato per la prossima settimana questa campagna che vuole attrarre l'attenzione su questo nostro organo qualificante, ciò che qualifica il nostro essere persone, essere certo, uomini, e questo richiederà una serie di eventi che si terranno in varie parti del paese. Il tema di quest'anno è quello della diagnosi precoce, perché ci siamo resi conto che per la maggior parte delle malattie neurodegenerative, come appunto l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi multipla, arrivare presto. Bisogna arrivare presto, certo. Bisogna arrivare così presto da addirittura anticipare la malattia, cioè da cogliere e da arrivare quando si colgono i primi segni, ma non c'è ancora nessuna conseguenza sul piano clinico. E oggi, professor Comi, questo è possibile? Questo è possibile perché abbiamo oggi degli strumenti che ci consentono di vedere questa fase prodromica, cioè riusciamo a vedere il nostro corpo che comincia a funzionare meno bene, in questo certo, caso il nostro cervello, e ovviamente cerchiamo di riparare immediatamente. E fra l'altro, ovviamente, è proprio l'intervento anche sulla dieta, oltre che sull'attività fisica regolare, ma sulla vita stimolante, sono elementi forti di questo cocktail che serve a qualificare la nostra vita futura. Grazie, professor Comi. Intanto ritorneremo naturalmente sull'argomento. Buona settimana mondiale del cervello. Trovate anche le informazioni sul sito della Società di Neurologia. Grazie al professore. Dottor Ongaro, dobbiamo salutarci, che così ci salutiamo con calma. Tanto io rimango vostro, quindi. Magnifico, questo mi piace. Non penso di avere tempo di sentire Massimo da Como. Massimo, posso salutarla? Buongiorno. Buongiorno. Grazie, che così mi aiuta a chiudere. Se Massimo vuole trasferirsi sulla nostra pagina, la dottoressa Luini, sono arrivate tantissime messaggi, non abbiamo potuto leggerle, ma risponderà. Sì, adesso la blindiamo su qua, sì, su Facebook. Dottor Onga, un abbraccio, grazie a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, alla dottoressa, grazie, Luini, che grazie, adesso blindo a rispondere, a Laura Vanossi in redazione. Che dire, che ci sentiamo domani? Grazie, a domani. Essere e benessere.